piazza Navona come altri cento. Giorni di vento, vento e fontane segnano il tempo con le campane. Tempo da noi sconfitto, l'ultimo raggio da un cielo fitto. Castigo nero puntuale, piove sopra un ospedale dolcemente sulla via. Tempo, mondo di sogno, mezze creature superumane. Sento chitarre, gatti suonare, lancinanti come zanzare. Tempo sembra leggero, poi d'improvviso tutto è importante. Ogni dettaglio significante può divenire significato. E ora non c'è patria, non c'è Dio, ma ci sei tu, ci sono io. E tutto il resto sembra caos, sembra niente. Tempo, lascia passare questo tempo che forse stanotte ci fa cantare. Tempo, basta parlare, solo ascoltare quello che è dentro. Ma prima che il fuoco del tutto sia spento, trova una strada e batti là in fondo. Tempo ci lascia muti ad osservare i nostri errori. Tempo, fermare il tempo sarebbe a dire l'eternità. E ora non c'è patria e non c'è Dio, ma ci sei tu, ci sono io. Tutto il resto sembra caos, sembra niente. Tempo, lascia passare questo tempo che forse stanotte ci fa cantare. Tempo, lascia passare questo tempo che forse stanotte ci fa cantare. Tempo, perduto tempo, piazza Navona come altri cento. Giorni di vento, vento e fontane segnano il tempo con le campane.